sorrisi aneriti dalla stranezza di un momento che non passa mai. Noti che non finiscono, sigarette consumate dal silenzio. Mille contraddizioni, mille motivi per non piangere. Mille immagini che diventano una, lei chissà dov'è. Lei chissà dov'è, lei chissà dov'è. Magari a perdersi come me in questa notte che non passa mai. Mentre immagini in bianco e nero stancamente passano alla TV. Vorrei piangere per il tempo che non ho vissuto. Vorrei piangere per l'amore che non ho dato. Perché la notte è bugiarda, ma sembra tutto più vero. Perché la notte è bastarda, fa sembrare tutto più nero, nero. Vecchie stanche situazioni che ogni giorno si ripetono. Vecchie stanche situazioni che ci piacciono, ma ci uccidono, ci uccidono. Di un momento che non passa mai. Reazioni esagerate si confondono nel buio della notte e nella nostra solitudine. Solitudine.